Allo, allo? Sì. Aspetta, vai. La prova, Marco. Levo lo squelcio, aspetta che era alto, vai. Prova, Marco. Allora, tra 95 e 910. Dove ti trovi? Sotto casa sono, ma ho aumentato però, Ho aumentato anche parecchio. E prima quant'era? Prima era 9. Oh, Salute. E quello dipende quanti watt li dai in ingresso. Magari hai guadagnato magari un watt in più e ti dà un bel watt in più, però, capito? Aspetta, la radio com'è? Buona? Sì, la radio è buona. Forse è migliore di quell'altra anche. Già non credo, già. Adesso mi metto nel punto dove eravamo, dove andava di più. Com'è adesso? Allora, circa 9,20. Porterà più giù. Diciamo che cambia molto, QSB, no, sale e scende il segnale. Bene. Allora, sono nello stesso punto di... che ho messo la macchina, com'è? Allora, 9,25, nell'ultimo passaggio 9,25. Ha cambiato dal giorno alla notte, ha cambiato. Oh. Ma tu non sei fermo, perché vedo che il segnale va su e giù. No, io già lì sono i punti. È tutta un'altra cosa. Meno male che è uscito il sole un po', perché oggi era una brutta giornata, coperto. Va bene. Io ho appena finito di mangiare, adesso mi corico un po'. No, prima ero da mangiare alle stelle, alle gatte, alle gattine, e poi mi sdraio un po', ok? Nel caso ci sentiamo stasera. Ma cambiato dal giorno alla notte. Hola. Dal giorno alla notte ha cambiato. Se ha migliorato, ha cambiato dalla notte al giorno. La notte è negativo e il giorno è positivo, quindi dalla notte al giorno. Papa, no, ha cambiato anche come recessione, come tutto, no. Non c'è storia proprio. Quello collegato direttamente alla batteria adesso, sarà per gli spiegare. Sì, diretto è meglio, molto meglio diretto. Che intec era, ricordamelo? FM tipo 100 Hz. Ah, quello, sì. Lo conosco bene, l'avevo avuto e poi l'avevo regalato funzionante a Pomponio. Papà, bello, eh? Ma è un'altra cosa, con questo qua. È tutta quanta un'altra storia. Come si segnala? Fondo scala? Vai. 1,3. No, 9,20. Però ripeto, come ti muovi varia molto. Sale e scende ovviamente perché Mara Mobile è così. Ma quanto, dai, io stacco. E ci sentiamo stasera, forse. Ti ringrazio. Ma ho fatto fatti da gigante, ho fatto. La Lem Magnum, cosa ne hai fatto? L'hai messa da parte? Il magazzino, Dov'è? Il magazzino! In casino? Nel magazzino, il magazzino, Avevo capito, in casino, cosa vuol dire? O ce l'ha buttata? No, ho già capito, il magazzino, ok. Va bene. Di nuovo, Anto, buona serata, ciao. Ciao, ora 9.30. No, sempre intorno a 9.20. 25, roba così. Yeah, ok, quelliti per me, ciao. Ciao. Aspetta un attimo, mi è sembrato di sentire qualcuno che tentava o di chiamare o di fischiare. Chi è avanti? Avanti chi chiamava? Chi è che chiama qua? Era un segnale basso, guarda, tipo 5,5 mi sembrava. Ho fatto una chiamata un mezzo fischio, non ho capito. Comunque basso come segnale, a livello poco più su del QRM o quasi a filo di QRM. Oh, non è Tiger a Sanpei, perché quel segnale l'ho visto ieri. Attenzione, attenzione, Sanpei, Sanpei, se sei all'ascolto. Eri tu che chiamavi, cambio? Boh, vabbè. Se vuole entrare entrerà. No, beh, Sanpei è crollato di segnale, lo sai, arrivava a quasi 9 qua. E ieri l'ho sentito sul 12, arrivava a 5,5 radio zero. Cioè capivo che era lui perché lo chiamavano per nominativo, capito? No, ha avuto problemi. Sì, a quanto ho capito ha problemi con quell'apparato, non ho capito che apparato sia, se sia un Galaxy o cos'era. È sparito di segnale. Vabbè, già risolverà, comunque basta avere un altro baracchino, riesce a comunicare lo stesso. Va bene, di nuovo, dai, ci sentiamo. Ciao, tu sei a fondo scala qua. Mi, hai toccato 9.40, per un attimo. Capa. Sicuramente sei magari in zona, sì, io uso con un pendi, ma poco. Ciao Anto, sentiamo, ciao, vado a riposare. Ciao, sentiamo. Ora. Avanti, Antone. Dammi il controllo, come sto uscendo? Dammi qua. Ho messo il quadro nuovo, come va? Benissimo, mi sento benissimo. Meglio così, dai quadro, cazzo, non prendi i coglioni. Bene, bene, bene, quindi chiara la radio, perfetta, sì? Benissimo, Antonio. È meglio così. Un attimo, mi sono ascoltato chiaro chiaro nel keyboard. Quindi già va bene. Ah, va, li metto il coperchio, lo chiudo e me l'ha posto. Ok. Io ti ho messo l'Intec qua in macchina, com'è? C'è buono. Capo, come si chiama quello che c'ha? C500S. Ah, di quello c'ho la mascherina io, del 500S. Capo, mi sembra abbastanza buono. Sì, stai uscendo bene, ma stai anche pompando però. Perché? A che si intende un pochettino. Ora, cosa è successo? Ora, posso far ritornare indietro, perché? Ora. Perché stai ritornando indietro? Perché c'è poca alimentazione, ecco perché. Controllati, stacca lineare a vedere un attimo, a vedere se lo fa lo stesso. No, non lo fa sicuramente. Sicuramente può cambiare il cavo. Devi cambiare il cavo, sì. Adesso cambio il cavo, magari è troppo fine quello là. Già ce l'ho un grosso. Sta tutto a pezzi, si intendi. Stacca lineare, stacca, magari bruci l'apparecchio. Cambiate il cavetto, ma il cavetto dovrebbe essere comunque. Il cavetto è l'alimentazione troppo, come si dice, troppo fine, delineare. Vedi che adesso che ho messo in moto non lo fa. Logico, ma attaccaci dei sigari li hai agganciato. No, negativo. No, allora il cavo è molto, troppo fine il cavo. Lo cambio subito, ci metto 5 minuti a cambiarlo. Cambialo, così almeno sei più tranquillo e tutto. Me ne sono accorto ora. Ok. Me ne sono accorto anch'io, ti sentivo a pizza, gli ho fatto un buco cosa da biglietto. Non ce la fa quel cavo, è merda. Va bene, dai, lo cambio. 5 minuti ci metto, va. Fai, intanto io sto mettendo il coperchio a questo. Allora, così almeno sto anche provando. Già va bene. Ok. Boh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Well, we said, well, we're anyway, drag all the Caffè di mamma Giulia. Cos'era, cos'era, dimmi. Il capo era. Ah, capo. Cazzo, io te lo smetto dove? Io lo controllo le resistenze. Se mi segna solo 5 watt massimo, uno di più. Come partito Dio, dove è provato a girare il trimmer, più di 5 non sale, quando si faccia portante, in questo modello 500. E controllo le resistenze, quale che partita, e la cambio. E però ricerca, c'è un trimmer, ma non c'è altro, 1, 2, 3, quindi prima letteratura è a manetta. Però quando si è partito il trimmer, il diodo mi sembra buono, se no non avrebbe rilevato un cazzo. Vabbè, che me lo metto a posto, uno di questi giorni. Vabbè, sto chiudendo il tutto e riprendo. Sì, va bene. E sono qua all'ascolto. Attento, Antonello, ci sei? Ah no, ho capito. A ciucucciù sei andendo. Stavo facendo ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Cappa, come di segnale, Antone? Con due scala? Eia. Ho cambiato tutta la situazione, ho messo anche i capi grossi. Hai fatto bene. Allora sei più tranquillo. Cappa. Aspetta un attimo, un secondino. Eia. Oh, il totale non l'ho usato comunque, il rocchetto, perché sono andato a prendere il palo e le gaffe e mi sono fatto male il rocchetto del totale grande, quello che ci avevi tu, così ce l'hai di riserva al modo nuovo. Preso, se metti il palo, preso, adesso appena il tempo migliora, prendo il vestallo. Bisogna far così. Sono contento però, questo è molto superiore. Poi ho passato i capi nella batteria, capito? Ah, e vabbè, già è una cosa ottima. Allora, abbiamo visto che ho sai cosa sto usando, quel fusibile grosso, quello dell'amplificatore, quindi del sub, capito, ho messo un fusibile grosso, qua c'è un altro fusibile, l'ho detto. Hai fatto bene, per me sei più tranquillo, sì. Capo, anche su cosa non prendeva un perno, quel capo. Tutto rotere. Ah, funziona tutto bene, funziona tutto bene, tutto bene. E già lo credo già, come? Ah, ma compendi da una grande. Ah, voglio che pompa adesso. Mi sento benissimo, figurati. Caffa. Ma sei con quello che stai aggiustando, sei? Quello tuo sto usando, bracchio. Ah, ti sento una grande, eh? Lo so che siete una grande, era il 4, era il 4 che girava le balle, gli ho fatto anche 4 saldature che ho visto un po' strane, con il saldatore quello piccolino che vende lì, dormi, che va caricato con il caricatore a 5 volts, quello verde, funziona benissimo come saldatore. Gamba. E quello già è buono. E infatti, adesso l'unica cosa che devo fare è spontare il cable, cazzo torna, passare l'aria calda, perché dove va in audio adesso, ogni tanto me lo fanno, questo cazzo di scherzo. non sempre, ma già me lo fa ogni tanto. Come lo scaldo appena appena non fa parte, funziona di nuovo tutto bene. Allora mi tocca metterci tutte le guide e torna. Un casino. Perché l'apparecchio è vicino al tappeto, alla finestra, quindi quando apro la finestra prende freddo e polvere e cose del genere, capito? E quindi se non parte la ventola va in protezione. Pulire la deve, no? Sì, confondo. Non faccio altro che passargli l'aria calda sopra la ventola, la faccio girare e dopodiché scaldo appena appena il finale, scaldo. E come vedo che parte in automatico da sola, boh, prendo e se tutto funziona. Troppo gaffa. Oh, troppo giocattolini comunque con la lancenza, con la roba così, troppo giocattoli sono, già va bene. Aspetta un secondo, rientro subito, stavo riprendendo la bottiglia d'acqua, Simone. Vediamo, Simone. Attenzione, attenzione, copiato Antonio Gaffa. Attento, America nocciolina, a me intendi no che? America nocciolina? Non è te questo americano? Io l'ho sentita voglia. Gaffa, com'è il segnale Antonio? Fondo scala sì qua. Allora, qualcosa ha cambiato? Io già lo che l'ho cambiato. È tutta un'altra storia, Gaffa, sono qua, altri tre colori sono. A passo di gare? No, per vedere se c'è qualcuno, non so, ho capito. Ma mi sembra che stia fungendo, mi sembra, tutto motore qua. Vabbè, già fuori già c'è fresco, come ho visto. Sì, macchina da peccato. Ah, è macchina, sì, se c'hai cosa acceso. Il scaldamento acceso, io lo credo. Vabbè, già non credo, via. Salve ragione tu, che è fatto, lo sai. E quella misura è come il 48, Sì, avevo ragione io che già ci stava. Certo che sì. Te l'ho detto. Ci sta anche l'FM500S, non so l'altro. Questo è l'FM500S. Quello è più stretto. Ma di poco per me, non ti credo che sia molto. Di poco più stretto, non è molto. In che senso? Perché non si sente bene? Sì che si sente bene, però è più stretto nel senso di. Come apparecchio, l'FM500S è appena appena più stretto della 68 e del 48. Capito? Ieri stavo parlando con Marzia e mi stava dicendo che forse aprono di nuovo la GBC perché quelli, i parenti di coso, di Tonino, c'hanno il negozio a Olbia, c'hanno, capito? La GBC di Olbia c'hanno. Allora di come l'ha pigliato, vedi che non lo fa più, non te la fa più adesso, ho preso la macchina, così conviene di aprire. Mi sa che apre nuovo la GBC di qua, speriamo che non faccia come Tonino, che faccia arrivare i pezzi, che faccia arrivare tutto. Almeno posso andare a comprare i componenti, che cazzo me ne vado a fare su internet. Capito? Se vedo che stanno allestendo, glielo dico, glielo chiedo. Qui la CB sta funzionando. Fatemi arrivare i componenti, li piglio da qua, li dico, ma non devo stare su internet, li pago quello che c'è da pagare, però almeno sono tranquillo, non me ne vado a fare a cercare i pezzi da fuori. Ma infatti, prima, adesso il futuro è qualche cosa pure. E boh, vediamo un po'. come sarà il futuro, cosa deciderà di fare. Vabbè, quello sì, lo sapranno loro, cosa dovranno fare. Ce la fa. È vecchiotto questo FM500S, in che anni è uscito? Quando è uscito il 548 è uscito anche quello, mi pare che era nel 90. Negli anni 90, giusto? Mi sembra proprio di sì. Ma chi la vendeva la Intec? La Intec è... non so che... Fusano mi sembra Rino. Torino forse ce l'aveva la Intec. Forse Grassi, no? Ah, o Grassi, sì. Giorgio Grassi ce l'aveva la Intec. Perché c'aveva anche il Superstar 2009. Vendeva il Tornado, capito? Capito. Non era della, come si dice, superstar, così ma quello che fanno oggi non è quello di una volta, Lo so, io c'ho quello di una volta. Fa cagare quello che fanno adesso. Sì, mi pare che partano dai 20 fino ai 30, mi sembra che arrivano, una cosa del genere mi sembra di aver capito. Per quello mi piglio cazzo il Radotel. Io hanno fatto un modello che fa due bande, fa la V, la U e la 27 trasmissione, capito? Fino a 30 mega si arriva, che costa mi sembra intorno all'Istex, c'era, mi sembra che costa intorno agli 80 euro, è portato insieme a quello che ho io. Ci sono due antenne, c'è quella della 27 e quella per la V e la U. Ma molto guarda come viene prendere con lui, bisogna vedere come escono, come funzionano. Già funzionano bene già. Va bene con il 48, ma ha spinto al massimo. Sì, l'ho spinto al maletta. Infatti quando parli si abbassa per la luce. Ma già va bene. Stavo chiamando. Via, va bene. Sto cercando lo spino o qualcosa, perché cazzo c'ho più filato. Forse è l'attacco VHF. Ci vede? Mi sa di sì, aspetta. E sei qua. Attenzione, accusci di nocchi. Cibi cibi ca. Devo ir in continente? No, stavo... come si dice? Stavo parlando con mia cognata. Ah. Vabbè. Ma stai controllando le stazionarie? No, aspetta, faccio un passaggio col coso. Le FM ce l'hai lì? Sì. Aspetta che ti chiamo con il Radotel e mi dici come esco. Va a vedere. Hola, chicos. Sono tornato normale. Un attimo. Non trovo il suo telefono. Ehi, va bene. Aspetta un attimo che sto prendendo il Kenwood. Bravo, una passata di fondo, così ti chiamo. Venga, fai fare Antonio. Attenzione, attenzione, con piazza Antonio KK. Mi senti? Sì, ti sento, mi sento bene, dai. Senti ancora 8 e mezzo, dai. Gappa. Già va bene, dai. Gappa, ma sei attaccato? Sì. Attaccato, sì. 4:15. E se arrivo con 9:10 da lì, in questa zona. Sì, ma magari sono fatti di là del corso. Guarda a vedere, meglio va ora. Pronto? 9:03. Adesso sei 9:05. Perché ero solo sotto la pensierina, mi stava dando fastidio. L'hai tolto, aspetta. No, mi sono spostato. Cazzo, da 8:30 a 9:05 c'è la differenza. Beh, già non credo, già. Mi copriva con la pensilina. Quella dentro. Eia. Ho capito anche dove sei, dove c'era la fermata tra i tappolini, prima di salire a Usuri. Cazzo, io mi sto provando questo, se va bene. Allora, Claudio, ti curi la bazzinata. Vedi, sono Europa, sabato 5-6, eh? 2 minuti. Adesso sono colpito. Scappa. Adesso ti dovrei avere un segnale, giusto? No, va bene. Oh, essere la peppina fa il caffè. Allora, un po'. Mancuzia. Apri un alcune, però. Già, guarda a vedere un po' com'è. 9:30, sì, tondo tondo. Già, va bene, dai. Che va bene. Scappa, guardate che si è migliorata anche la radio. Ma tu, se buschi il microfono Intec con quell'apparato lì, quello con una batteria da 1,5 va una bomba. Dovrei avercelo a casa. Quello con una bomba. Io lo usavo con quello, mi chiedevano tutti se era proprio lì era attaccato, eccetera. Io come sto scendo? Bene, sì. All'inizio eri tutto distorto, stavi strappando, adesso sì. Adesso l'ho chiuso, ho dovuto passargli l'avvento. Aspetta che tengo il baracchino di Antonio, che mi c'è. Che vado a riposarmi un po', che sono stressato. Ci sentiamo magari più tardi, dai. Ciao a tu, interessante che controllo vada bene. Va benissimo, va. Che faccio, schiaccia? Cosa faccio, modula? Modula, la, la, la, la. Ti faccio sciloci di fuori, te la mente. E la vogliamo andare di cosa? Ti vuoi togliere il segnale? 1, 2, 3, 4, 5. Così l'ho capito già, dimmi che si è attaccato il fondo. Ho detto, quanto ti arrivo di segnale? Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 più 20. Che magari, ciao, va bene. Io scillo ci di fuori. Va bene, a dopo, là, ci sentiamo dopo, ciao ciao. Eia, eia, dai. Minimo sono 60 ora, no? Antonella. Allora, un po'? Hola, hola, hola. 6:40, sì, 60 non lo so, ma signora 6:40. Mi stavo quasi sotto l'antenna tua. Se vuoi ti dica. Aspetta. Sono anche soltanto. Adesso ho centrato. Centrato vai, guarda a vedere. Ah, sì, 60 è fuscia. Ti faccio il filo di fuori, ti faccio. Vabbè, ti sento tutto usato quando sei sotto, grazie. Aspetta che ti attenuo. Ma non so, non so. Adesso già andava, già andava. E stai una passatina in fondo. E riprende a funzionare al vento, ragazzi. Mi fa male il freddo questo baracchino qua, perché quando apro la finestra entra vento, umido, polvere, capito? Non so, papà. Troppo è così. Io male, lo conosco le voi, a me. Non c'è bisogno che di svuotare l'apparecchio. Metto il polo sopra la ventola e parte subito. Ah, perché ha problemi che non parte la ventola? Quando fa il polvere si inciuda, hai capito? L'altra volta ho spruzzato il CRC, l'ho spruzzato. Ho fatto scaldare le due secondi finali e è partito subito in quarta. Scappa. Questo sono voci, sono i cosi, i urbani, là. Io, già va bene, sto arrivando forte, voglia. Gappa, gappa. Oh, già, già un po' che dice. Potete pigliare la pizza, dimmi, è la stessa cosa a me. Boh, sto pensando cosa mangiare, cosa fare da mangiare. Boh, ma poco fa che sto comando niente. Mangiare. Io mi sono pigliato la cosa, stavolta. Sono andato a Ortini, via Verona, ho preso le pizzette, che sono buone, e me ne ho mangiato una ieri notte, una a pranzo, poi le ho pigliate in tutto quattro, a metà anche Simona. Non si può far nulla, un visto che non mangia, oggi ho fatto giù con la ricotta, ho fatto. Mi vado anche l'altra volta sono stato ancora, mi sono pigliato le gambe del pollo, quelle larghe, e me le ho scaldate, poi ho fatto la pasta il giorno prima, l'avevo fatto, capito? E ce l'avevo già pronta, quindi ho voglia roba. Mi ho dato un po' al cane, e nel resto abbiamo mangiato io e Simona. Quando sei in due e fai la spesa per due, non capite brutto, anche il discorso è quello, perché non puoi prendere roba grande, mi capisco, ma se no ti si guasta. A me che mi squilla, bianco. Ehi, d'accordo. Sì, mi dica. Antonio. E allora, io ho svuotato il mio, col forno, una passata lì fuori la ventola, poi è partito subito, adesso lo so chiedere il coperchio di sopra, mi sono l'ultima pizza, e sono a posto. Già va bene, già va bene. Ma lei si è chiamato poi, ancora? Questo? Adesso lei si è chiamato? Il baracchino sì, anche quello di bianco nel bombo l'ho sistemato, cioè ho cambiato il quarzo, si ho sistemato lo Smith e adesso funziona benissimo. Ehi, che c'è uno che l'ha spostato? Io ho spostato di 7 kg, figurati cazzo, ho fatto un paio di 2-3 saldature che ho le cuffie, capito? Ma ormai c'avevo il quarzo in un 200 canali ce l'avevo, 10-240, io l'ho messo nuovo, glielo ho messo. Diciamo che poi mi sono accorto di avere anche il quarzo per i canali sotto, non va bene, me lo metto a 548 SX, me lo metto, quello che ho giù da Baby Pot, così lo faccio 80 canali, lo faccio. Okay. faccio, però non c'ho il non so se c'è il 6 l'altro della Intec, quello che c'ha tre pulsanti nella frontalina, adesso non mi ricordo come si chiama. Quando capita che mi capita un barchi oggi, che non è modificato, prendo e non faccio altro che agganciarli, stacco i fili a uno a uno e lo faccio, lo c'è canale, lo faccio diventare. E da 20, quello c'è anche 45. Ma penso sì, no, non ho staccato i cavi infatti. Così come erano, capito? C'è il numero, c'è, lo faccio altro che il colore al numero. Quindi salvo i cavetti così e almeno sono a posto. Allora, è perfetto aver risolto. Bene, veda. Mamma mia, mi senti, a ma cocchi noghi. Ma che bombolo è, dall'elettrovia? Ehi, Antonio Bombolo è. Ehi, a Bomboli, ti ascolto. Tutto il radio ti ascolta, segnale zero. Capo, sono dentro città, capo, c'è un bel mondetto a te. Non ti ascolto benissimo. Cos'è che hai detto, Antonio? Che c'è un bel mondetto adesso, però ti ascolto bene. Capito? Sono dentro città, diglielo. Capisco, sta parlando Antonio o sta parlando qualcun altro? Sono i tanti di sotto. Sì, vabbè, c'è anche la pagazione del resto, quindi. Qui a casa. Adesso vediamo, ci ho messo quello spezzone del cavetto. Adesso non me lo trovo. Mi sento per cazzo la fuggiata. Per attaccare il microfono amplificato al keyboard. No. E allora cerco la buia. Mi l'avevi trovato. E vabbè, se riesco a farlo uscire. Prova. Bomboli! Attento Daniele, mi ascolti, grazie. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, già esce. 1, 2, 3. Una bomba, Antone. Questo è Sadelta, il CM40. Dovresti abbassare leggermente, forse c'è un innesco. Sì. Adesso va bene. Va meglio. Ci ho messo il barattino vicino, cioè il microfono vicino al barattino, ecco perché è in desca. Già va bene. Allora vaffanculo, sono fischiato. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ora busta la maletta. Se va bene, sento la televisione di casa, sento. Se sei tanto messo profondo. Vabbè, sempre più amplificato è normale. Già va bene. Che bombo è che non sento? A me senti, Daniele. Adesso meglio, Antu. Adesso va leggermente meglio. Dove sia, lavoro o in giro? Sono quattro Daniele. Cava, no, già sta arrivando. Va bene. E se avesse funzionato questo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di cacchio? Ah, che adesso è uscito, Antonio? Cos'è, passa di radio? No, adesso si è ripreso. Tu ma sì. Sì, quando non usi il microfono d'apparecchio, per forza lo fa. Sto usando l'Echo Master adesso, si sente anche dall'Echo. No, Echo non ne ha, solo bip si sente. Ok. Hola. 1, 2, 3, 4. Adesso si sente il Papa, l'Angelo sta facendo. Se sono per Daniela ti sento bene, Daniela. Bene, ti ascoltando, anche tu. Ciao, ma vedete tutti che ti segue da casino. Qua sta arrivando oscillante, sta arrivando. La popolazione è bassa adesso, quindi ogni tanto ti perdo. No, io già ti sento già. Ma va bene. Perché c'è anche poco PRM ciò adesso. Meno male. Ma non è vero. Perché sta una giornata piovosa e quindi è per quello che senti meno PRM. Se no di solito tutta la mondezza ne arriva quando c'è l'operazione. Eh sì, conferma. Stamattina c'era un po', ma erano tutti accavallati, non si capiva nulla. Lo so, quando c'è propagazione a volte uno sopra l'altro, ma capisce qualche cosa. Diventa, poi c'è il 45 d'estate, però tutti sopra non si capisce nulla. Ah, quello che è vero, eh. Io volevo fare una prova, cioè. Volevo accendere il drone. Vedere cosa succedeva. Se sta funzionando bene o se ha sincopato pure lui. Il drone? Ah, è di... La parecchio grande. Cappa. Cappa un secondo, è venuto. Prova, prova. Già, sono qua. Non c'è problema. Che tu sei quello che c'è fissa e... Meno male il segnale. Ma lo vedi. Guarda, questo è col... Col 40, sto usando il vato su e sto usando. Poi mi dai risposta con l'altro. Sei 9.10 con questo, eh? Radio 5. Perfetto, mando un secondo e comuto. Va bene. Io sono a Sant'Orsola, eh. Antonio, mi senti da Sant'Orsola? Certo. Mi sentite? No, non ti sento, solo sentivo. Andate a Sant'Orsola sono. Io dico dove sono io, Sant'Orsola, Santiago 9. Cappa, ho cambiato anche il baracchino, eh. È molto meglio del radio tu. Secondo me è meglio di tutto. Guardi bene, non ti preoccupare, però si è lasciato un po'. Ci sentiamo dopo, mettono subito. Cappa, cappa. Anda bene. Sempre quell'antenna stai usando? Sempre quella con cosa? Con l'FM500F. Molto molto meglio, stai arrivando molto meglio. Va bene, dai. Ci sentiamo dopo. Sei quasi 9, 7, 8, 9. Sei in movimento. Cappa, movimento sono. Sei una canonata, sei molto distante da me, Anto. Sei distante e non ti vedo neanche io, quindi per me è più che sufficiente. Ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao, ciao. Avanti, Daniele. Un po' bassino ora. Vabbè, io sono in movimento. Sì che ci sono, la voglia. Prova un po', 1, 2, 3. Passaggino. Sì, segnale 9, con picchi a 9.10. Cappa, guarda, io sono a Sant'Orsola, mi senti? Adesso sì, a tu. Cappa, a me. Ma mi senti che segnale mi dai da Sant'Orsola? Più forte. Antonello? Sì, ya. Dimmi. Che segnale mi dai da Sant'Orsola? Fa passaggio? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9 più 20. Che cazzo? Ma bomba, Lo so che è bomba. Cazzo, è forte il segnale. Cazzo, dai, io sto scendendo dalla macchina. Ce la risentiamo dopo. Sì, a dopo. Ok. Guarda adesso, a te, che è successo? Più forte? Sì, 9.10, tonto, tonto. 9.10. A meno che non stia parlando l'antenna mia, comunque, sì, 9.10, adesso tonto, tonto. Cazzo, l'ho messo il lineare grande, non 9.10 solo. A me arriva il 4 l'alto, che non farà da. No, 6.9.10, tonto, tonto. Evidentemente non è ancora a casa, se tu l'hai appena acceso è logico che non ti tira, capito, il lineare. Adesso sei no, quindi 10 libri di guadagno ce li hai, vedi? Sei 9 a picchi a 9 quasi a 9.10. Invece quando attacchi sali direttamente a 9.10. E guarda adesso, ora la cipolla, 1, 2, 3, 4 e 5. 9 più 10, adesso. Va, va bene. Dai che mi attacco l'altro adesso. Va bene, io sono qua, non c'è problema. Che è venuto in una gara. La radio è buona, sì, la poi. Sì, a voglia che è buona. Perfetto. Vera, vera. Passiamo un po' questo, dai, tanto di farlo scaldare un po'. Così gira anche lui. Sai che si porta spesso un po' di montezza fino a proprio questi cartoni. Ah beh, quello sì. E va bene, va bene. Ma non c'è nessun altro, no, Antonio? No, per me no, no, no, no. Infatti Claudio, vabbè, avevamo io Antonio, Claudio e... E la cosa è detto, no, senti dove la c'è, c'è tanto, sarà più lento. Ah, ho capito, spero che ci sta andando, questo imbarattino, meno male. Hola, hola, hola, questo microfono normale. Questo è normale il microfono, Antonio. E io metto quello normale adesso, quello su originale che avevo le 140. Chiara, chiara. Chiara, sì. Scusa. Sì, non so perché ogni tanto va a graziare la sua radio. Ascolta le persone, tipo, a corriggia. Me lo facevo a me, anzi meno male già mi sono piegato il palo nuovo ieri, quando c'è il problema di massa, va ta ta ta ta ta ta ta ta ta, poi si muove lo smitter, capito? Si dà per appena, te ne accorgi subito, te ne accorgi. A me però c'è qualche piede e mezzo smollato. Ah, ma è solo questa radio, Antonè, ma lo fa sia in macchina, ma lo fa qua. Ma le volte lo fa, le volte non lo fa. È da un po' di tempo che lo sta facendo. Poi si riprende da sola. Qualche falso contatto allora c'hai. E lo fa, specialmente per esempio i segnali un po' forti, per il tuo, dai. Sei un po' alto. Allora inizia ad andare a scariche. Capa, capa, gli va bene. Carità, per carità. Buongiorno, da Siracusa, di 900, non so se stavo per dirvi, anzi scrivere, ma non se la presento. Il gran contatto a livello mondiale sta qui, una nuova era para tutta la umanità. Ha llegato il gran contatto a livello mondiale. Fantasia adesso. Aspetta una faccia qua. Eia, va bene, va bene. Subito. C'è un Royaiso 2000, un trasmettitore FM. E questo cazzo è? Un Galaxy Saturn, ecco, c'è. È un altro trasmettitore FM della DB elettronica. Vecchio è... Già sono qua, già sono qua. C'è un po' che appare che stava vendendo, cazzo, su subito.it. Bubu? Già li ho visti, Antonè. Già li ho visti. Cioè, l'imbarazzo è la scelta. Vedi che non è stata accolta, infatti. Mi sono imbarazzato proprio per lasciare il cadere. Ecco come ho ridotto le mie bollette, luce, gas, gas. Sì, sì. Questa ogni tanto la chiede dei soldi, come qua. Quello c'è. Ah, beh, è andato. Ora se lo dice. Ma è quello che faccio portare in questa radio. Allora, accetto di essere tua moglie, permetti di amarmi e di non tradirmi mai, prima di mandi i soldi, gli carichi le cartine, poi ti ci manda a far culo, ti ci manda, sai chi è, quella che faceva Riva, quella che faceva il CIS, la lei la figlia, non sai chi scegliere, perché era più tuffato di scegliere. E chi altro è? Quella lo faceva Siva su NCIS nel film. Sai perché le do soldi? Ho intanto fa il video che sta piangendo, amore mio ti voglio sposare, eccetera, eccetera, perché mi hai chiuso? Io ero grido, se chiedi soldi, cazzo. Okay. Antonio, mi sono andato a prendere la moto adesso, sto facendo le commissioni e poi ti prenderò là. Va bene, già siamo in occhi. Tani, hai visto vai tu a quella che parla a telefoni di cellulare di turca, quella ragazza da malattia immobile, ragazzi. No, cioè. Quella sì che è brava, cazzo, nelle unghie, cazzo, che ti apre il telefonino con le unghie ti apre, era poco di follower, aveva almeno 1 milione, poi un po' di lava a me, c'è un negozio, quella è bella sposare, mi così ti rifà il telefono gratis, pure mi stai attento, le tali unghie così lunghe. È un pericolo pure. C'aveva almeno 15 cm di lunghezza, immaginati. Basta che guardi su Facebook, Samar Immobile, piena di Naime. L'altra volta in Francia, poi è andata pure a Napoli a farsi la passeggiatina. Ma la madre non l'avevo scippata. Ah, si può lasciare il coltello a portare le unghie. Penso proprio di sì. Quella se ti graffia, si immaginati che ti apre il telefonino con quelle unghie, alza in forza che c'hanno quelle unghie. Deve essere che sono incollate bene. Chiara, chiara. Oh, Iulia. E proprio l'ho chiuso. Sono qua. È arrivato sotto casa. Già è qua, è arrivato sotto casa sua. Già ho sentito, ecco, sono qua. Bene, veda. Bella. Che è una mobile 5 giga più i minuti illimitati più 200 sms 300 gigabyte 5,99 come parla adesso sale uguale. Che la trombettina della compagnia, cioè. È andato a fare idee. Oh yeah, di tutto di più c'è. E non mi stai guardando altro, è così. Lo so subito. Ah no, sto guardando adesso i... Ma dove si vedono i... Google mi sto guardando. Per vedere le notizie fresche. Capito? Ho capito. Le notizie tanto io le cose di ricerca di Google. Bisogna fare il ciucucciù. Allora, noi siamo in mezzo alla pioggia adesso. Quanto sono? Un mese? Come minimo. Voglio andare che lui saluto, ce la sentiamo dopo, dai. Che sono arrivato. Va bene, già siamo qua. Frane, la Sardegna non è al sicuro con la mano. A bagno d'acqua siamo. Qua paura non ne abbiamo. Voi già siete discesa lì. Tutto a mare va, tutto a mare. Compresa anche le macchine. Quando era? La settimana scorsa i carabinieri sono andati a recuperare altre dalla spiaggia. Noi paura non ne avere. Adesso non poteva, dopo tutto quell'acqua che c'è, cioè, che ha buttato il mare in spiaggia, in coso, fa salire qualche sarcofago di cose, pieno di dinaga, di monete. Avanti, avanti. Vecchi, vecchi, vecchi. Sei tornato, no? Già va bene, già va bene. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Cos'era il qua? Ora. No, non me lo dire no. Ora. Ciucciù. Chi è più veloce, esatto o su bus? Siamo più veloci noi, siamo. Ora. Perché non scende? Ah, questo è il Michelin. Ecco perché, aspetta. Ecco, la valle mo si battezzi. Sulla C, e ci siamo.